Io credo che ci siano state diverse componenti, uno zoccolo duro che forse era più duro di quello che pensiamo, la scelta di sganciarsi dalla coalizione di centrosinistra, o comunque una scelta secondo me più subita che altro, perché Conte è stato messo in difficoltà dalla rottura, secondo me, scelta da Letta, a partire dalla scissione di Di Maio, che evidentemente è l'evento che ha causato la catena di situazioni che poi ha creato la crisi di governo e la rottura del campo largo. Sicuramente la riconoscibilità di un tema che soprattutto al sud influenza molto, che è il tema del reddito, e il fatto che, questo è l'elemento dal mio punto di vista più sorprendente, il fatto che Conte, senza nessuna esperienza in questo campo, è riuscito a diventare dal Presidente del Consiglio in pochette all'avvocato del popolo che sta a stare in piazza e sta a empatizzare con le persone. Questa non è una cosa scontata, è una cosa che neanche si impara in fondo, anche se l'esperienza conta, e lui oggettivamente è riuscito a fare questo. Quando si è capito che il Movimento 5 Stelle stava crescendo, dallo staff di Conte erano sorpresi della reazione delle piazze e della sua capacità di stare in piazza, quindi la cosa ha sorpreso per primi loro. Tra domenica notte e la giornata di ieri ci sono state scaramucce tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, un po' per il risultato insomma ottenuto in particolare dal PD, ma anche per, pare di capire, per come dire, la collocazione che il Movimento 5 Stelle ha scelto con Conte, è così? Sì, Conte ha, c'è una parte di verità in quello che dicono alcuni suoi detrattori, cioè che lui in qualche modo ha individuato uno spazio politico libero e si è schierato da quella parte. Però bisogna anche dire che Conte parla di progressismo e l'etichetta di punto di riferimento dello schieramento progressista non se l'ha inventata lui, è stata appiccicata addosso, secondo me facendo un errore clamoroso, dalla segreteria di Nicola Zingaretti, dal dialogo che aveva con Goffredo Bettini, ricordate? Quindi lui si è ritrovato in quel campo lì e ha avuto il gioco facile, ha trovato uno spazio, una prateria, come dice il professore De Masi, che è uno di quelli che ha lavorato molto per spostare il più a sinistra possibile il Movimento 5 Stelle, e ha trovato moltissimo spazio perché il PD, in maniera del tutto inspiegabile, anche col senno del poi, non è chiaro dove volesse andare a parare, aveva deciso di sposare questa fantomatica agenda Draghi. Guarda, in questi anni noi sempre abbiamo detto, senza fare nessuno sconto, perché era giusto fare così, abbiamo sempre sottolineato le ambiguità del Movimento 5 Stelle, il fatto che non sciogliesse alcuni temi, mi riferisco ovviamente per esempio al tema dei migranti, al flirtare con certo sovranismo, cioè erano tutte cose che era giusto sottolineare ed era giusto colpire duro, perché che in fondo sono anche cose che in fondo portarono il Movimento 5 Stelle al governo con la Lega, e quel governo, non ce lo dimentichiamo, cadde perché fu Salvini a volerlo fare cadere, perché il Movimento 5 Stelle, soprattutto con la gestione di Maio, non aveva grossi problemi a stare al governo con Salvini. E però durante questa legislatura è successo che quegli elementi là in qualche modo si sono emancipati dal Movimento 5 Stelle, perché sono andati al voto alla destra, e quindi possiamo dire che anni di grillismo hanno anche preparato il terreno a questa destra, è così, e perché se ne sono andati con le diverse piccole grandi scissioni che il Movimento 5 Stelle ha subito. Ovviamente penso a quella di Di Maio, che era l'anima moderata e che surfava molto su questa ambiguità del Movimento 5 Stelle. Non ci dimentichiamo che l'espressione taxi del mare, mutuata da un finto scoop di Striscia la Notizia, la fu lanciata dall'allora leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Ma penso anche a un fenomeno, un piccolo fenomeno ma indicatore, come quello di Gianluigi Paragone, no? Che fa una lista che si incamera vecchi arnesi dell'estrema destra e del nazifascismo in nome dell'Italexit, e lui era stato eletto nel Movimento 5 Stelle, e uno come Alessandro Di Battista, quando Paragone uscì dal Movimento 5 Stelle, disse che Paragone era più grillino di molti che nel Movimento 5 Stelle erano rimasti. Quindi tutto quel mondo c'era, ne è uscito pensando di lucrare e di fare un investimento politico, perché la stagione del Movimento 5 Stelle era finita. Da qui nasce l'etichetta progressista di Giuseppe Conte, che evidentemente ha alcune contraddizioni. L'ultima domanda che ti voglio fare è se, a tuo avviso, in quella prateria che dicevamo prima, Conte ci resterà e insomma gli piacerà continuare in quella prateria. Ieri secondo me Conte ha fatto un discorso abbastanza chiaro da questo punto di vista, cioè ha fatto capire chiaramente che lui a questo punto punta a essere il punto di riferimento dell'opposizione a questo governo, quindi se per una valutazione puramente geometrica e spaziale sarà un'opposizione che sarà l'opposizione alla destra, quindi sarà fatta su argomentazioni che saranno di sinistra. Faccio notare anche come Conte a un certo punto ha detto una cosa che non è proprio limitata agli elementi più facili, quelli sul reddito, facili eppure concreti, però insomma più facili da comunicare, ha detto le differenze non sono devianti. Quindi è un concetto che ha una sua complessità, insomma, che si stupisce messo in bocca a un esponente del Movimento 5 Stelle. Quello su cui secondo me si misurerà veramente questa capacità di Conte di tessere questa rete è che un'opposizione non si può fare semplicemente dentro il Parlamento e non si può fare da soli. Quindi il Movimento 5 Stelle, che ha nel suo tratto originario, il non fare alleanze, che voleva dire non fare alleanze con gli altri partiti, ma anche non contaminarsi con pezzi di società in movimento, ha mollato tutto quell'armamentario ideologico che non funzionava dal punto di vista tecnico della piattaforma Rousseau e quella la paccottiglia di Gian Roberto Casaleggio, e però ha ancora un automatismo un po' autarchico, mentre invece sta adesso un'opposizione che potrà essere identificata come di sinistra per quello che può valere nel nostro millennio. Conte deve contaminarsi, mettersi in discussione e dialogare con pezzi di società che probabilmente non hanno trovato forme di rappresentanza, ma che dentro i nostri quartieri e le nostre città esistono. Io penso che su questo si misurerà non nell'immediato, ma nei prossimi 5 anni questa sarà la prova che è chiamato il Movimento 5 Stelle.